dimmi che il tuo cuore spinge. Dimmi che non mi pietrificherai come una sfinge. Il tuo muso da medusa e no a tutti i miei perché, perché tu ora non sei più qui con me. E déjà vu di tutti i tuoi sì prima, ora no per la mia schizofrenia. Rimango qui appeso a un sogno leso fatto di ero, coca e fumo nero. Io li butterei via solo per stare con te in un abbraccio, in un letto, invece che uno straccio a terra per strada. Non sai quanto fa male camminare senza le wings tra i piedi. Io vivo a 100 all'ora con 300 piedi di distanza dal suolo. Io volo sopra un mare d'alloro e comunque vedo te all'orizzonte verso l'infinito. La direzione è quella del mito. Se se torgo lacrima, tingo ogni mia vittimistica vib. Bra, la vibe, sclera, è tutto quello che ho dentro. Non trova un senso e sono immobile dentro a un Lambo. La mia Bentley parla. E quindi quando il cuore in mano vicino a te brilla, ecco così la mia vista che agli occhi di te che l'oscurità. Vedo Caravaggio dentro l'anima. E tu che sei la cosa più bella che c'è, lontana come la particella di Dio, ora non in me. E tutto quanto che vedo dentro a stento, riconosco che è soltanto il tuo addio dentro me. Riconosco che quel che vedo entro me è il tuo addio fuori, lontano da me.